raccomando, non toccare niente. Dobbiamo stare su due impari. Se mi concedi questo. Che ci mancherebbe. Dai. Grazie. prossimi tocca qui davanti, eh? Eh? Ai prossimi tocca qui davanti, quindi... No, ma questi sono per gli spiriti che verranno evocati. Posti della vergogna. Eh? Posti della vergogna. Allora, buonasera, grazie di essere qui. Io, come dicevo a Mariano, sono molto emozionata perché, insomma, l'opera di Mariano è un qualche cosa di molto complesso e interessante e nuovo. Quindi, diciamo, sono contentissima di affrontare insieme a lui un percorso attraverso la sua scrittura. Devo dire che nel fare qualche post, nell'immaginarci qualche cosa che potesse pubblicizzare l'incontro con Mariano qui alla libreria Tra le righe, io e Federica ci siamo avventurate a fare un post, non so se si chiamano post, su TikTok, e mettendo come tag dei nomi che io pensavo potessero essere adeguati, potessero sollecitare la curiosità, e poi mi sono resa conto in un secondo momento, quando c'è stato un primo riscontro, che erano, diciamo, sostantivi, aggettivi che potevano dare un'idea molto sbagliata del percorso che intendevamo fare, perché hanno cominciato ad arrivarmi dei messaggi. Si può anche parlare? Ah, non ce l'avevi con me, ok. Perché mi sono cominciati a tornare dei messaggi un po' inquietanti, che per esempio legavano l'incontro con Mariano a quello che stava accadendo e che era accaduto recentissimamente a Palermo. E allora dai forza a specificare che noi si era da tutt'altra strada, che si cercava di smascherare. E insomma, quindi lì ho capito che bisognava fare attenzione, perché gli argomenti di cui parla Mariano, e magari chiederò subito a lui di specificarli un po' meglio, non hanno a che fare con l'illusionismo, con il mesmerismo, con l'attività di alcune veggenti o sensitive, e però l'operazione che viene portata in porto, che viene portata a termine, è una operazione assolutamente, come dire, specialistica, volta a, da una parte, a smascherare se c'è, come dire, mi viene imbroglio, forse non è la parola giusta, ma tanto per capirci, ma soprattutto è un'operazione volta a ricostruire l'ambiente in cui vivevano ed erano immerse queste persone, le loro storie e come dire, le cause profonde, sociali, economiche, ideologiche, che ne determinavano un po' l'iter biografico e narrativo che Mariano ricostruisce benissimo. Quindi io, diciamo, la prenderei alla larga, comincerei dalle basi, chiedendo a Mariano, che io spero conosciate tutti perché è molto attivo sul web, ha delle pillole meravigliose, pillole di Mesmer, molto molto interessanti, in cui ci sono gli argomenti più disparati, ma che girano sempre intorno alle sue questioni di interesse. Però ecco, gli chiederei di cominciare spiegandoci in due battute la differenza tra illusionismo, mesmerismo e mentalismo. Mentalismo. Vai. Io inizio dicendo che anch'io sono piuttosto emozionato e ho affidato al mio blog i motivi di questa mia emozione perché io leggo i testi di Giuliana da tempo e ha un tale acume ad affrontare i temi di cui si occupa che essere sotto la sua lente è lusinghiero e anche terrificante al contempo, ma è bellissimo essere qua, quindi è il terrore della bellezza e dello stupore. Io sono un illusionista e quelli della mia generazione associano l'illusionismo alla figura del mago Silvan, per capirsi. Quindi l'artista che in scena fa succedere cose impossibili, ma onestamente dice che c'è il trucco. E se riesce a nascondervelo con successo, l'esperienza che vivete è l'esperienza della magia. Ma è un'esperienza che vivete, che vi concedete, nonostante siate e cerchiate di essere persone razionali. Poi c'è il mentalismo. Il mentalismo è quella sottobranca dell'illusionismo che invece confonde un po' i piani e le sue retoriche perché si presenta al pubblico dicendo che i metodi utilizzati sono di un certo tipo quando in realtà sono esattamente i trucchi dell'illusionismo. I mentalisti sono quegli illusionisti che tipicamente non usano oggetti, che hanno a che fare con i nostri pensieri, che smaterializzando l'illusionismo classico non si presentano con la balletta classica seminuda in scena, non tirano fuori il coniglio dal cappello, non segano in due le donne, ma prevedono il futuro, vi leggono nel pensiero e che quindi dimostrano forme di potere inquietanti, perturbanti, perché poi in scena non dichiarano di essere degli illusionisti e delle illusioniste, ma dicono che questa cosa ha a che fare con ogni epoca la sua spiegazione. Oggi dicono che ha a che fare con la psicologia, quindi dal modo in cui abbassi gli occhi, riescono a capire se stai mentendo o meno. Ogni epoca ha le sue pseudo spiegazioni per rendere convincente questa cosa. Quindi è la forma di illusionismo più subdola, per me più affascinante dal punto di vista appunto del perturbante, perché usciti da uno spettacolo di un mentalista o di una mentalista, una buona parte del pubblico è convinta di aver assistito a qualcosa di autentico e di autenticamente meraviglioso, sorprendente e incredibile. L'altra parte è che sa che c'è un trucco, invece dà una spiegazione diversa. Il mentalismo affonda le sue radici nel mesmerismo. Il mesmerismo era una teoria nata in ambito medico, alla fine del Settecento, da Mesmer appunto, che sosteneva che tutti noi siamo dotate di una forma di magnetismo innata, che a differenza del magnetismo delle pietre, è un magnetismo animale, quindi non minerale, grazie al quale si possono per esempio curare le malattie. Uno degli allievi di Mesmer, certo Puy Seguir, scopre che manipolando questo fluido magnetico è possibile mettere le persone in uno stato mentale che oggi chiamiamo ipnosi, all'interno del quale si attiverebbe il terzo occhio e quindi le persone, una volta con gli occhi chiusi, in questo stato chiamato di sonnambulismo, sarebbero in grado di prevedere il futuro, leggere nel pensiero, ovvero fare tutto quello che oggi fanno in scena i mentalisti. Ecco che gli illusionisti del Settecento si accorgono che lì c'è una pseudo spiegazione interessante per presentare in teatro i loro numeri e farli sembrare veri. Quindi il mesmerismo itinerante per tutto l'Ottocento è in realtà illusionismo presentato con una chiave pseudoscientifica medica, in cui i vecchi giochi di prestigio vengono rivisti in una chiave più moderna e sembrano veri. Chiaramente chi performa questa arte sta in qualche modo esplicando, sta utilizzando una forma e sta conquistando una forma di potere sul pubblico. E ogni volta che c'è il potere c'è da interrogarsi chi lo usa, per cosa lo usa, lo utilizza in maniera emancipante, esiste un modo emancipante per usare il potere? Come mai sono tutti maschi quelli che fanno questa cosa? Da queste domande è partita la mia indagine. Non è possibile che magari anche qualche donna si sia esercitata con queste cose? E da qui nasce un po' il E mio quindi da lavoro. lì hai deciso di mettere a fuoco la questione, ma ci sono donne in questo mondo che non hanno soltanto, come dire, ricoperto la parte di Assistente. ancillare, eccetera, ma hanno avuto un altro ruolo, un'altra funzione, quindi in un certo senso si sono emancipate da quel ruolo assolutamente subordinato e secondario. Quindi da qui sei partito. Sì, oggi se immaginiamo una donna sul palco di un illusionista, la si immagina appunto seminuda e pronta a subire tutte le sevizie del mondo, perché poi alla fine del numero comunque tutto verrà ricomposto e quindi della violenza non resta traccia e possiamo andare avanti. Un po' una bella metafora di come funzionano tragicamente le cose. È più interessante che nell'Ottocento quella dinamica era molto più complessa e interessante, e ho voluto mettere il naso lì. Perché? Perché nella scena magnetica, quella che avveniva nei teatri, intanto la protagonista era una donna. La donna veniva messa in stato di sonnambulismo da un uomo che aveva il potere di indurle questo stato. Quindi lei da sola non poteva farlo, aveva bisogno di un uomo. E quindi la relazione di potere era classica, la gerarchia era quella. Quando però si attivava il terzo occhio e questa donna cadeva in questa condizione mentale chiamata sonnambulismo artificiale, e lì le cose si invertivano, perché l'uomo diventava il suo assistente e lei iniziava a vedere cose che lui non poteva vedere, iniziava a indovinare le carte scelte dal pubblico, leggeva nei libri chiusi, e c'era un'inversione interessante che oggi è stata completamente dimenticata. Per cui, andando a mettere il naso lì, mentre io ho iniziato a occuparmi di queste cose con un documentario titolato Donne a metà, dura 13 minuti e lo trovate su YouTube, in cui si racconta come nel Novecento la donna è stata soprattutto vittima della magia, a un certo punto mi sono detto, basta raccontare la donna sempre come vittima, proviamo a cercare figure invece che hanno capovolto il tavolo, rovesciato il tavolo e preso la sega in mano invece di subirla. E così sono andato indietro nel tempo e ho trovato alcune di queste storie che ho trovato grottesche, assurde, incredibili, e ho cercato di portare l'illusionismo su carta, quindi portare un po' la sorpresa che si vuole provocare negli spettacoli di illusionismo, ma trovando storie tutte vere, ma assolutamente incredibili. Quindi Mariano, intorno a tutto questo, mette insieme un modo di fare ricerca assolutamente colto, ma al tempo stesso appassionante, per lui, ma forse ancora di più per chi comincia a leggerlo. Devo dire che parte di questo lavoro di ricerca Mariano molto generosamente lo mette a disposizione, perché lui sul suo sito ha una sezione intitolata Biblioteca Magica del Popolo, che mette insieme, credo, più di 3500 testi che vanno forse dal 500 in qua, e che se voi praticamente cliccate arrivate a leggere i testi originali nel giro di qualche istante, di qualche click. Credo che sia una cosa unica in Europa, no? Perché 3500 testi fanno una biblioteca specialistica assolutamente, io direi, preziosa, unica, non ho altre parole per definirla. Quindi trovo che sia molto generoso il lavoro che tu fai, perché non solo tu ridai vita a quei testi, e magari qualcuno è passato assolutamente, anzi la maggior parte sono passati assolutamente nel dimenticatoio, tu ridai vita a quei testi, ma li metti anche a disposizione di altre persone che possono magari ripercorrerli per tirar fuori altri studi, altri saggi, altre ipotesi teoriche. Quindi io sono rimasta veramente, come dire, ammirata facendo un po' di ricerche e un po' di click. Mi piace molto anche la postura che tu hai adottato nell'andare a cercare queste figure femminili che sono passate dal subire la magia al praticarla e quindi all'esercitarla in maniera attiva. Secondo me tu adotti una postura, però ti chiedo conferma, adotti una postura che è quella del femminismo intersezionale, perché innanzitutto tu vai a individuare tutte, tu l'hai detto prima, la tua domanda è dove sta il potere. Noi vediamo una determinata situazione, leggiamo un certo fatto, seguiamo un certo passaggio biografico, ci dobbiamo chiedere da che parte sta il potere, no? E quasi mai il potere sta dalla parte della figura femminile. Di solito il potere è un qualche cosa che costringe quella figura femminile, non dico all'angolo, ma quasi, e sta tutto all'intelligenza, alla volontà e alla resilienza di queste donne, se qualche volta sono riuscite a tirarsene fuori, come racconta Mariano. Dunque, farei un passo indietro. Poi torniamo a parlare di queste donne, però io ho, come dire, una mania personale che risale agli anni 70, ed è praticamente la trasmissione da parte della Rai di uno sceneggiato famosissimo che fece epoca, Il segno del comando, a cui tu dedichi un libro che è lì e a cui dedichi anche alcune pillole di Mesmer. E quello era uno sceneggiato che in un certo senso prendeva la figura di Byron e utilizzava un ipotetico passaggio di Byron a Roma per mettere in piedi tutta una vicenda a metà strada tra lo spiritismo e i servizi segreti, i nazisti, eccetera. Io ho ascoltato la pillola di Mesmer, una delle pillole di Mesmer che tu dedichi, e mi è sembrata molto molto bella la distinzione che tu fai parlando della colonna sonora del segno del comando, perché tu distingui tra musica intra ed extra, ed è un qualche cosa che tu utilizzi per collocare chi ha visto quello sceneggiato, chi vedeva quello sceneggiato, per collocarlo dentro la vicenda, fuori la vicenda, in maniera più passiva, in maniera più attiva. Mi è sembrato, come dire, un'apertura a quello che poi avresti fatto dopo, no? Al chiederti il potere dove sta, perché se tu sei dentro una vicenda, in un certo senso la subisci e quindi sei lì che guardi in maniera passiva, e invece se sei uno spettatore attivo magari ti puoi fare anche qualche domanda di più, no? Ecco, non so se tu per te Il segno del comando è stato un momento importante, oppure ti ci sei dedicato passando poi ad altro senza soffermartici troppo. Parto da un saggio di Afko, un'attivista nera che in un libro scrive che mi sono riportato il titolo del suo articolo è "La confusione è necessaria per far evolvere l'attivismo". Dice che quando noi non accettiamo lo status quo, ma vogliamo uscirne, mettere in discussione le cose come stanno, entriamo in uno spazio non mappato in cui possiamo essere confusi. L'esempio che lei fa è come fanno gli uomini quando devono aprire una porta, la tengono aperta la donna? Non c'è una risposta chiara, e uscire per esempio dal patriarcato ti mette in uno stato di confusione. E lei dice, bene, bene, è un segno che sei nel punto giusto. Il segno del comando è incredibile perché anche a distanza di più di 50 anni ti mette in uno stato di confusione, succede anche a me, che sono assolutamente razionale, voglio provare a smontare quello che ho davanti agli occhi. Mi provoca quelle sensazioni tipiche del romanzo gotico in cui riconosci e non riconosci, sai, quel posto un po' ti è familiare ma ti sta anche provocando qualcosa di strano, al punto tale che io mi sono detto devo occuparmi, devo entrare nella vicenda perché mi attiva troppo, e in particolare rivedendolo ho scoperto che la musica nello sceneggiato gioca molto questo ruolo. Ogni tanto c'è musica che i protagonisti sentono, e quindi è chiaro perché c'è una persona che suona la chitarra, il protagonista la vede e commenta. La stessa musica qualche minuto dopo accompagnerà i passi del protagonista per Trastevere, e si capisce che non c'è uno che la sta accompagnando. E poi in una puntata, che è la quarta, quella dedicata esplicitamente alla musica, succede che la regia gioca con chi guarda e mette una musica che sembra intradiegetica, cioè che i personaggi stiano sentendo, ma non lo è, e viceversa. E questo crea confusione, ma a me piace, da tecnico dello stupore, isolare il meccanismo per rendere consapevole chi guarda che quella sensazione di perturbante ha una tecnica dietro, c'è un metodo, nel caso non è letterario ma è sonoro, ma chi scrive lo sa fare con le espressioni verbali, con i tempi, con le ellissi. E sta a chi fa critica letteraria evidenziare la potenza dello strumento. E quello che però voglio fare non lo faccio con l'obiettivo di fare debunking puro, non mi interessa smontare l'incanto, io sono prima di tutto un illusionista, quindi voglio preservare quello stato di incanto, e quindi provo a usare quella che tu definisci con un'espressione perfetta, strabismo positivo, è un'espressione che recuperi da Laura Cocci, e che io di solito dico sguardo bifocale, ma strabismo positivo è bellissimo. Cioè, si può essere al contempo razionali e non, è complicato, ma nel mio caso, nella mia analisi del segno del comando, il cui percorso parte da un certo numero di via Margutta, che c'è, chi va a visitare il posto lo trova, e finisce in via delle Tre Spade, che invece a Roma non c'è, quindi un luogo completamente inventato. E quindi nel mio libro io accompagno da via Margutta a via delle Tre Spade lungo un percorso che vi porta davvero in questa piazza che non esiste, dimostrando, documenti alla mano, che questa piazza non esiste, perché recupero le cartografie dell'epoca e quindi vi porto veramente nelle strade di una città autentica sulle tracce di un luogo che non esiste, e ci si arriva mettendo insieme la visione dello sceneggiato, che non basta da sola, la lettura dell'omonimo romanzo, che non basta da sola, e messe insieme utilizzando la logica del sogno, cioè ripercorrendo indietro nel tempo alcuni passaggi, voi con il libro mio in mano arrivate in questa piazza che non esiste, per regalare questa confusione, per offrire anche strumenti di navigazione in questi piani a metà tra il reale e il letterario, cercando di mettere così, l'illusionismo al servizio della narrazione, ma anche dell'emancipazione, cioè anche offrendo degli strumenti per vedere da fuori il meccanismo e non subirlo soltanto, che era un po' questa alternanza a cui facevi riferimento. Sì, tra l'altro, come dire, questa che tu chiami confusione, e come giustamente hai detto tu, è un meccanismo utilizzato moltissimo dalla narrativa gotica, no? Da Giro di vite di Henry James c'è sempre quella discrepanza, quella doppia visione sulla vicenda narrata che mette un po' dentro e mette un po' fuori. Può essere un'apparizione, come può essere una percezione. C'è sempre questo ondeggiare, no? E molta narrativa gotica è costruita su questo meccanismo. Sì, devo dire che Il segno del comando mi è sembrato un esempio perfetto di questo, e sono rimasta anche un pochino a riflettere qual era il meccanismo analogo che si poteva individuare nella scrittura letteraria. Forse un cambio di punto di vista poteva essere lo strumento più adeguato. Devo dire che, saltando alle veggenti, io non mi ero mai interessata alle figure reali di veggenti, sonnambule, sibille e quanta sensitive, eccetera, se non diciamo nelle veggenti e sensitive di carta, perché la narrativa, soprattutto la narrativa firmata dalle scrittrici, si sofferma con dei capolavori su questo. C'è Affinità di Sarah Waters, c'è un racconto lungo meraviglioso di della Byatt, tra l'altro, dove la sensitiva si ipnotizza da sola. Ed è un racconto tutto giocato sull'ambiguità tra da parte di queste due che si occupano di organizzare delle sedute spiritiche, di fare predizioni, eccetera. Tutto giocato sull'ambiguità tra il dover sbarcare il lunario e quindi cercare mezzi, eccetera, e una percezione alterata che invece fa pensare che una delle due almeno abbia veramente delle suggestioni, sono poteri reali, insomma c'è questa ambiguità che percorre tutto il racconto, che io trovo straordinaria e che rimanda direttamente all'ambiguità che tu hai sottolineato nel segno del comando, e anche all'ambiguità che tu nel percorso, nell'itinerario che disegni con Incantagioni, trovi spesso e volentieri nella vicenda delle sei donne che racconti. Come le hai individuate queste sei donne? Io mi sono dato come principio quello di non occuparmi di storie di cui si fa cenno su Wikipedia. Se Wikipedia ha una voce dedicata a questa persona, io non me ne occuperò, perché mi piace stupire anche chi è già nel ramo, e quindi voglio che un mio libro stupisca anche chi conosce molto bene queste vicende. Per cui le trovo un po' nei margini. Non so, una delle mie preferite, Prudence Bernard, è la moglie di un illusionista e quindi sempre è stata presentata come tale. In un libro sulla magia di Tolosa viene di lei l'autore dice tre parole, dice era brutta, e questo esaurisce tutto in questo, e nel mio capitolo invece gonfio la sua vicenda a dismisura, in qualche modo per controbilanciare quel giudizio. No, quello che sento come vocazione mia personale è che se noi prendiamo l'insieme di chi fa illusionismo e di chi scrive, nell'intersezione dei due insiemi non ci sono tanti individui. Quindi sono uno dei pochi illusionisti che si occupa anche di scrittura. Quindi il mio sguardo mi piacerebbe che passasse, perché non tutte le persone che fanno ricostruzione storica hanno quello sguardo. E nello specifico, trovando storie vere e da illusionista e mentalista, sapendo che per produrre certi effetti impossibili ci vogliono dei trucchi, mi diverte molto trovare i trucchi specifici che queste donne hanno dovuto utilizzare, spesso facendosi forza di limiti che avevano. Per esempio, questa Prudence a Parigi si era comprata un gilet magnetico, di quelli che ancora adesso vendono contro la sciatica, in un negozio di articoli medici, insomma, che indossava sotto il corpetto, senza che la gente sapesse che c'era questo giubbotto sotto il vestito, e con la forza del pensiero muoveva l'ago di una bussola, che chiaramente funzionava perché da donna non veniva mai perquisita fisicamente, quindi approfittava del fatto che non si mettono le mani addosso a una donna. E a Milano ho trovato questa relazione, che quando si è esibita nel ridotto della Scala di Milano, i medici restano sconvolti e firmano che questa donna aveva un magnetismo personale, animale gigantesco, quando in realtà appunto nascondeva questa cosa sotto i vestiti. Oppure l'altra, Leonide, una bambina di Montpellier, che era in combutta con la mamma, si era fatta costruire una benda truccata chiaramente dalla madre, e sospetto addirittura che il papà ci cascasse, perché il papà la prende e la porta a Parigi per farla controllare dall'Accademia di Medicina. Questa bambina bendata riusciva a leggere. E c'è ho trovato questa bellissima incisione di lei sulla sedia con questa benda che legge, con i medici intorno esterrefatti, e anche qui riusciva a leggere grazie al fatto che questa benda aveva un certo trucco. E poiché poi i trucchi di queste donne finiscono poi sui giornali perché qualcuno li sbugiarda, è divertentissimo seguire i modi con cui loro alzano sempre di più il tiro, rendendo sempre più complessi i trucchi che usano. Quindi una, scoperto che sbirciava da sotto la benda, utilizza una maschera di argilla, per cui entra in scena con un sacco di terra, se lo fa spalmare sulla faccia appena è secco, che quindi è assolutamente impossibile vedere, continua a leggere questi libri dicendo di farlo con il terzo occhio. Questo scontro tra queste donne e la stampa è grottesco, è divertente, è memorabile, insomma, però ci vuole l'occhio di chi conosce i trucchi del mestiere. Questo è il mio contributo, io porto questo, porto una cosa che una normale storica non avrebbero, perché è un altro il loro lavoro. Senti, quanto hai messo per scrivere Incantagioni, compreso il lavoro di ricerca? Incantagioni mi ha portato via tutta la pandemia, e ancora un pezzettino, quindi ci sono voluti 2 anni circa. E poi vabbè, ne parleremo dopo, ma a un certo punto un pezzo di Incantagioni si è staccato, è diventato un'altra cosa, e quindi sono rimasto, erano 6 le tappe di questo mio viaggio, da Torino volevo arrivare fino in sui Pirenei, ma ho deciso poi l'ultima tappa di staccarla, e quindi poi sono ripartito verso Orléans, e quindi il libro si chiude a Orléans. Sì, no, devo dire che hai fatto un grossissimo lavoro di documentazione, perché sono tantissimi gli studi che confluiscono poi in quello che tu scrivi. Tra l'altro hai anche una bibliografia molto, molto interessante, perché a volte citi cose inconsuete e metti a punto una serie di coordinate bibliografiche molto interessanti, soprattutto lo posso dire considerando che tu sei uno studioso e non una studiosa, no? Perché c'è una differenza nel calibrare le bibliografie al maschile e al femminile, c'è un'attenzione da parte di chi scrive ed è una donna e si occupa e magari ha delle posizioni femministe, per cui ha cura anche di estrarre, no? Degli studi firmati da donne, ed è una cosa che tu fai e che io ho apprezzato tantissimo. Ho tante compagne per cui sono grato, perché come dire, il contributo che mi arriva da loro ha uno spessore che a me mancava, e quando mi sono reso conto di che cosa schiudeva lo sguardo femminista mi ha abbagliato, per cui adoro gli scritti di Laura Tripaldi, che di recente ha pubblicato Gendertech, ma prima aveva pubblicato vari testi di esoterismo, ma con uno sguardo profondamente femminista. Terry Castle ha pubblicato tanti testi in cui il perturbante, il gotico, tutto il capitolo, l'ultimo capitolo sulla donna invisibile, perché ciascuna poi ha un nome che sembra un supereroe Marvel, sulla donna invisibile è un grosso debito con Terry Castle. Adeline Baldacchino in Francia ha scritto un intero libro contro Macron, in cui rivendica l'utilizzo della magia contro il potere super razionale che vuole imporre i limiti del realismo capitalista, e potrei andare avanti. Loredana Lipperini è stata con i suoi libri, è stata la scintilla da cui sono partito per scrivere il documentario Donne a metà, e ne cito un certo numero. Tu sui Cattagioni, come hai detto, fai un itinerario di 6 tappe e finisci a Orléans. Orléans, la Pucella d'Orléans, eccetera. La tappa che hai, come dire, estromesso è confluita in quello che io dentro di me chiamo il libro perfettissimo, perché questo secondo me è straordinario anche in Cantagioni, ma poi spiegheremo perché secondo me è un libro perfettissimo. La leggenda in Decorosa di Lourdes io penso che sia qualcosa di veramente rimarchevole. Dunque, allora, la mia preferita di Incantagioni, e poi magari tu ci puoi dire due parole su ciascuna delle altre, però la mia preferita è l'ultima, quella che tu chiami la donna invisibile. Le altre, ci vuoi dire qualcosa brevemente sulle prime 5 tappe? Sì, la Sibilla moderna era un po' la Vanna Marchi dell'epoca, quindi una donna indipendibile, e quindi insomma interessante per quello. Sono quasi tutte persone amorali, verso le quali si nutrono sentimenti opposti, perché oggi sarebbe facile etichettarle come imbroglione, però sono imbroglione che ci piacciono. La Jean Rochette invece, la storia lionese, no, prima c'è Carlotta Cerrino, che aveva fatto apparire una piuma dello Spirito Santo al re Carlo Alberto a Torino, e il re c'era cascato, e conservava questa piuma che in realtà arrivava dal suo pollaio, come una piuma dello Spirito Santo. Jean Rochette a Lione aveva sconvolto i massoni, perché dopo aver simulato di essere un po' una vittima delle loro magnetizzazioni, un giorno ha deciso di automagnetizzarsi e lasciarli a un palmo di naso, e lei è stata quella su cui io, a proposito della quale mi è stato più utile leggerti, perché lei ogni sera raccontava a questi massoni quello che vedeva dall'aldilà, con l'abilità di una persona che fa il pitch di una serie per Netflix, perché racconta un pezzo ma non tutto, perché voi vi dovete riportare qua domani sera, e per mesi questa qua, che era una ragazza del popolo, è riuscita a vivere ben sopra le sue possibilità, perché questi tutte le sere pendevano dalle sue labbra, perché questa serie continuava sera dopo sera. Alla maniera di Scirasad. Esatto, però in carne e ossa, è vissuta davvero. E poi abbiamo Leonide, che vi ho accennato prima, era la bambina che leggeva nei libri chiusi, che quindi è stata testata a Parigi dai medici dell'Accademia. C'è Prudence Bernard, che dicevo, quella del giubbetto magnetico, che è stata quella più, tra tutte, quella di maggior successo, perché è stata la prima che ha preteso il suo nome sulle locandine, quindi quando si andavano a vedere i suoi spettacoli c'era il suo nome sopra, e si è esibita a Torino, tra l'altro, quindi c'è la piazza Torino dove c'è, oggi è un'officina tristissima, ma c'era il teatro dove si era esibita lei, era una specie di teatro off, e quindi ha portato in qualche modo il mentalismo in Italia. E poi c'è Ersilie, nata a Milano da un prestigiatore invece parigino, che ha una storia decisamente più interessante e tragica rispetto a tutte le altre. Sì, ha una storia straordinaria, cioè sembra un romanzo d'appendice la sua storia. L'hai messo tu nero su bianco, praticamente fai il Dumas della situazione. Perché è estremamente interessante quest'ultima personaggio? Tra l'altro tu utilizzi anche il termine personaggio, per cui io ho avuto una specie di frullo al cuore quando ti ho letto. E, è estremamente interessante perché lei, musicista, dava dei concerti, cioè, a un certo punto viene internata, non si sa bene perché o per quale motivo, viene dichiarata pazza e comincia la sua trafila, che è una sorta di discesa nei gironi dell'inferno, dove subisce trattamenti sempre più duri. Viene internata in 5 manicomi, 6 manicomi, e lei, questa donna doveva essere un genio per architettare quello che ha architettato, lei praticamente riesce a mettere, innanzitutto riesce a sopravvivere, cosa che non era assolutamente scontata, ma poi riesce a mettere in piedi una strategia che la porterà effettivamente a essere dismessa dal manicomio. Come l'hai incontrata? Perché ti ha affascinato? Quanto tempo ci hai dedicato? Perché veramente la sua storia a me fa pensare, come dire, i collegamenti che mi sono nati in testa sono tantissimi. C'è uno sceneggiato che si chiama Freud, che è una sorta di vita di Freud apocrifa, il giovane Freud che ancora stenta a trovare un suo ruolo, una sua affermazione nella professione, ma si vede uno spaccato di quelle che erano le cure nei manicomi dell'epoca e le cure soprattutto a cui venivano diciamo assoggettate le donne, e ci sono delle scene che sono veramente strazianti, perché non sono cure, sono vere e proprie torture che queste dovevano subire. La situazione che tu rappresenti è ambientata 50 anni prima, prima di una e poi ce lo dirai, di una sorta di riforma dei manicomi che li rende forse, non dico più democratici, ma meno degli istituti assolutamente spaventosi e totalitari. Saranno comunque spaventosi, perché anche dopo questa riforma, mi sono ricordata il nome, Camille Claudel viene internata dalla madre e dal fratello dopo aver scolpito delle opere straordinarie che si possono vedere al Museo Rodin, che era il suo maestro. Quindi, come dire, malgrado la riforma, le catene del sistema manicomiale rimangono belle, belle toste. Però tu rappresenti la vita di Ersilie prima di questa riforma, e un po' con te noi entriamo, no, in questi istituti manicomiali, vediamo le dinamiche tra la classe dirigente e le sue, insomma, dici qualcosa? Intanto, perché un illusionista dovrebbe occuparsi di questo? Suo papà faceva il mago, l'illusionista, entrambe le cose. Suo papà era in Piazza della Rivoluzione quando il re perde la testa, quindi è una delle testimonianze che vengono riportate in tutti i libri sulla Rivoluzione, e che lui c'era e lo racconta in prima persona. Sbarcava a Lunario scrivendo almanacchi, oroscopi e facendo l'illusionista, proiettava i fantasmi sul fumo fingendo che fossero i fantasmi. Poi, insieme alla moglie, questo qui presenta il numero della donna invisibile. Voi entrate, immaginate di entrare in questa stanza, al centro c'è una sfera di vetro sospesa, completamente vuota, da cui emerge un cornetto acustico. Voi parlate a questa sfera vi risponde, perché costui dice: mia moglie è stata smaterializzata e chiusa nella sfera, e quindi può interagire con voi in forma completamente eterea. E quindi io potevo entrare, interrogarla, e la voce mi rispondeva: ciao, ti vedo vestito con la camicia scura e il cappello con la lacca. E la gente interagiva, pagava per uno spettacolo che era un antispettacolo, perché non c'era niente da spettare, perché era invisibile, appunto. Tant'è che era chiamato un miracolo acustico, perché non si capiva dove venisse la voce. Era un gioco di prestigio, perché la moglie era chiusa in un armadio, viveva relegata in quell'armadio, da cui sbirciava la scena, e un sistema di cavi portava la sua voce dentro la sfera, e non si capiva come fosse possibile. Era presentata come la donna invisibile, e io mi sono immedesimato in costei, perché non doveva essere facile vivere lì dentro, nel momento in cui ti scappa la pipì, magari giorni del ciclo, posso immaginare cosa voglia dire stare 8 ore al buio a performare questa cosa perché il marito si ricevesse gli applausi. Ma tutta questa parte ve la racconto io, che sono l'illusionista, altrimenti i testi su questo gioco ti dicono solo: questo era il gioco della donna invisibile. In tutt'altro ambito scopro la storia di questa Ersilie, che però non connetteva in nessun modo con l'illusionismo, e poi scopro che Ersilie era figlia di costui, Tuk, che alla moglie aveva riservato questo trattamento. E quando lei poi una mattina si sveglia e si scopre in manicomio, sparita, chiusa in un armadio da cui non potrà più uscire, mi rendo conto che è un gioco di illusionismo che si è elevato al cubo, che è diventato vero. Per cui, mentre la madre è riuscita a sfuggire da quell'armadio perché ha mandato al diavolo il marito e lui se n'è dovuto andare in Inghilterra con un'altra perché la moglie lo ha cacciato, ha poi avuto Ersilie con quest'altra a Milano durante un tour sempre di spettacoli di illusionismo, E mi interessava tantissimo raccontare questo gioco della donna invisibile per far vedere come un gioco da camera, da un'attrazione da baraccone circense, può diventare la realtà una generazione dopo. Qual è la parentela tra le due cose e in che modo poi lei, capendo che c'era di mezzo qualcosa legato alla famiglia, ha utilizzato gli strumenti dell'illusionismo e del mentalismo per liberarsi? Questo ha fatto, ovvero ha fatto tesoro di quello che aveva visto fare da suo padre come illusionista e ha iniziato a intessere tutta una rete di rapporti che l'hanno portata appunto a liberarsi. E lo spoiler grosso, ma non, ovviamente non aggiungiamo altro, perché come si libera ovviamente è la parte più affascinante. Lei è una che è riuscita a far arrivare a noi la sua voce scrivendo un diario con il suo sangue, perché le sottraevano sempre l'inchiostro, quindi anche questa immagine di un diario scritto sulle lenzuola col suo sangue è pazzesca. E la cosa più disturbante che ho incontrato è che lei, oggi la ricordiamo, perché è riuscita a convincere uno di questi funzionari del manicomio di essere tipo l'erede al trono di Francia. Costui era un QAnonista, avete presente QAnon? Era uno che oggi passerebbe le giornate a fare l'hater sui peggiori blog della rete, su Facebook. Costui viene convinto da costei che lei è stata chiusa lì come la maschera di ferro perché è l'erede al trono, e lui la fa liberare. Per cui praticamente lei, manipolando le credenze di questa coppia, di lui e lei, lui era un uomo di potere, lei lo ha convinto di questo e lui l'ha praticamente fatta liberare. Ha dedicato un romanzo alla sua storia, romanzando e cambiando i nomi, per cui se sembra un romanzo è perché lo è anche diventato un romanzo, la storia di costei, ne pubblica le memorie che oggi vengono utilizzate moltissimo in Francia, in tutti i testi di antipsichiatria, perché sono le memorie in prima persona di una donna che ha vissuto quell'esperienza. E tra le cose più belle che mi è capitato è che ho trovato in Gallica, la biblioteca online francese, uno spartito di una canzone scritta da lei. Per cui ridare voce per me è stato, voluto dire, chiedere a mio padre che suonasse al piano quella musica, ho chiesto a un'amica di cantarmela e abbiamo inciso una canzone di Ersi Lì, che oggi quindi si può riascoltare e che probabilmente finirà nel podcast di Incantagioni che stiamo realizzando a Torino insieme a Ludovica Perina e Luca Piccolboni, i due autori del podcast Cassandra sul blog di Nero, quindi potremo risentire la voce di Ersi Lì e non solo leggerla in una delle puntate a lei dedicate. Sì, devo dire che c'è in quest'ultima diciamo tappa del tuo percorso, c'è, si può dire, forse la metamorfosi di Ersi Lì, no? Ragazza, da donna giovane che subisce una situazione che non capisce, a una donna che invece è in grado di porsi delle domande e fare delle ipotesi su cui cominciare a influenzare chi la circonda, no? A manipolare chi la circonda, con l'obiettivo di tirarsi fuori da quella situazione infernale. C'è un'altra trasformazione che io vedo avvenire tra le righe di quest'ultima tappa, e cioè la tua, e dimmi se sbaglio, perché magari è qualche cosa che io non ho percepito nelle tappe precedenti. Cioè, in quest'ultima tappa tu fai tutta una serie di, ti poni una serie di domande su che cosa significa raccontare, su che cosa significa raccontare una vita, su che cosa, che cos'è il vero e il falso di una vita. A un certo punto dici: io non voglio terminare come qualcuno che celebra il falso, no? Però tu quel falso lo smascheri e ne dai, come dire, tutte le corrispondenze, tutta la rete di rapporti che in un certo senso circondano quel falso e ne danno conto e, come dire, costituiscono la sua, lo autenticano, quasi danno l'autorizzazione a che quel falso sia, perché quel falso è funzionale non a, come dire, un imbroglio fine a se stesso, ma a un'emancipazione, se posso dire così. Ecco, però tu in quest'ultima tappa ti costruisci anche come narratore, sbaglio, o è qualche cosa che tu hai sentito anche nelle tappe precedenti e che poi affiora però soltanto in quest'ultima, in queste ultime pagine. Me lo concedo nel finale, dopo aver cercato di riflettere sulla liceità di dire le bugie per, a fin di bene. Se vogliamo, in tutti i capitoli precedenti ciascuna di queste donne dice un sacco di bugie, grazie a queste bugie convince i suoi coevi di avere dei poteri che quindi hanno degli effetti reali, pratici, che diventano soldi, privilegi, in qualche modo ribilanciando uno squilibrio che non doveva esserci dall'origine. Per cui in un mondo ingiusto come il nostro, quel falso è un falso più che virtuoso. Nell'ultimo capitolo questo raggiunge per me la tensione massima, perché Ersilie si libera intestandosi e cercando di convincere quelli intorno a sé, in particolare questo funzionario, di una fake news assoluta. Ma quella fake news apre le porte del manicomio. Possiamo essere contro quella fake news senza sentirci a disagio? Io mi sentirei molto a disagio a essere un debunker assoluto. Cito il caso del vescovo locale che stava scrivendo un libro sugli eredi dei Borboni, che quando sente questa storia arriva in manicomio, la intervista e se ne va via deluso dicendo: ma questa sta raccontando una bugia, e ci terrà a dire che la verità non è quella che dice costei. Ora, non è un gesto assolutamente violento verso di lei negare quello che poi invece per lei diventerà la liberazione. Oggi siamo in un mondo in cui le fake news sono considerate il male assoluto ed è difficile presentare serate come questo, perché stare su quel filo in cui la fake news è il male, ma ci sono casi in cui appunto il giudizio è decisamente da complessificare, mi sono permesso una cosa così complessa e complicata solo alla fine, chiamando un amico che è Buminguno e cercando di avere un dialogo con lui per trovare un equilibrio, perché altrimenti si entra in un terreno talmente scottante che ci si fa male. Sì, perché non è soltanto, come dire, raccontare la storia dalla parte come dire, del colpevole, del criminale, come a volte fanno molte serie TV, no? Perché c'è questo rovesciamento e uno empatizza con la parte negativa. No, la cosa lì è assai diversa, perché la questione è mettere a fuoco le concause sociali, economiche, psicologiche che stanno intorno e che stringono d'assedio una povera crista che è costretta a fare carte false nel senso vero della parola pur di tirarsene fuori. Quindi in un certo senso è un parteggiare, mettersi dalla parte di chi ha meno potere, no? E smascherare la congiura di potere intorno. Non mi riferisco alla congiura di cui parli tu, ma è una congiura di potere che a volte, come dire, incontriamo anche nelle nostre vite. Mi piace leggere un passaggio, perché tu dici: convinto che le storie imbarazzanti siano anche le più fertili, perché costringono ad affrontare la complessità e uscire dalla propria zona di comfort, che poi è quello che fanno le storie perturbanti, no? Quello di spingere chi legge a farsi delle domande, perché i riferimenti che ha normalmente stanno traballando e deve trovare una posizione più sicura, però fuori, insomma, da quella che è il suo rifugio. Quindi mi pare che tu porti a termine un'operazione che non è soltanto di ricostruzione storica, ma è anche, come dire, di messa in discussione di alcuni meccanismi narrativi, no? E spezzando una lancia a favore non del falso, non dell'imbroglio, ma di tutte le situazioni che in un certo senso costringono, no? E che sono soverchianti rispetto a chi è in una posizione di fragilità e di minor potere. Sì. Cosa che tu porti, come dire, all'ennesima potenza, perché come dire, l'obiettivo è il potere della Chiesa, e in un certo senso anche l'idea che ci facciamo o che alcuni si fanno di Dio, tu lo porti all'estremo, all'ennesima potenza con La Vengente indecorosa di Lourdes, dove racconti una vicenda che si svolge a Lourdes e che ha cambiato il volto del territorio, perché diciamo c'è un prima e c'è un dopo. Chi arriva dopo non riconosce più quei terreni, quel piccolo paese, perché è stato tutto stravolto da questa, non saprei come definirla, da questa storia a metà tra fede e sfruttamento economico. Ed è bellissimo come tu non solo smascheri, ma ci racconti come le cose potevano essere andate diversamente. Se che cosa? A me piaceva esplorare la possibilità di scrivere un libro di storia che tenesse insieme l'utopia. E come si fa? Perché l'utopia è oggetto invece della narrazione di fiction, e l'approccio storico invece deve restare legato ai fatti. E leggendo un libro su Lourdes di una sociologa americana, mi imbatto in questa frase, e lei dice proprio en passant, le cose andarono così ma potevano andare altrimenti, e questo altrimenti da solo mi ha fatto esplodere la testa, un po' perché mi chiamo Mariano, io devo, da sempre ho a che fare con un aggettivo che all'interno della Chiesa vuol dire remissione, obbedienza, umiltà, e che sento gravare pure da uomo, nemmeno anche senza essere donna, proprio se fossi donna sarebbe forse ancora di più. Cosa che scrive benissimo Michela Murgia nel suo Ave Meri, che è tutto un libro dedicato a come la Chiesa ha plasmato la figura della Madonna per controllarci, uomini e donne. E dovevo fare i conti col mio nome per in qualche modo risemantizzarlo, perché mi stava troppo stretto. I miei genitori sono stati in viaggio di nozze a Lourdes, quindi non è una parentela vaga, è una roba che ho dentro. E quindi sono stato anch'io a Lourdes alla ricerca di qualcos'altro, cioè c'è altro a Lourdes che la luce fortissima della Madonna e della sua veggente ufficiale Bernadette ci impedisce di vedere. Quello che succede sui palchi dell'illusionismo: la forte luce nasconde il prestigio, e in quel momento di flash per un attimo possono succedere delle cose sul palco che restano invisibili. Che cosa rende invisibile Lourdes? Bisogna arrivare a Lourdes tenendo la mano che copra, diciamo, la fonte di luce principale, e si trovano cose senza doverle inventare. Io sono un po' schiavo della realtà, perché non ho mai scritto romanzi o racconti di fiction, quindi se vado a Lourdes devo trovare una storia vera, e ho trovato la storia della veggente numero 2, che si chiamava Josephine Albariot, che come Bernadette negli stessi giorni vide la Madonna, la vide all'interno della grotta, perché la grotta è accessibile nelle sue viscere umide, arrampicandosi, mettendo i piedi sull'altare, quindi una roba abbastanza sacrilega, ed entrando nelle sue profondità, e lei vede più volte non solo la Madonna, ma addirittura l'intera Sacra Famiglia. Nei primi giorni i cronachisti delle apparizioni sono pronti a giurare che anche quelle sono apparizioni autentiche, entrambe vengono chiuse in convento, ma Josephine scappa, torna a casa, poi aspetta che suo padre muoia per riscappare ancora e farsi una vita sua, e diventa una lavoratrice del sesso. Per cui la Chiesa, davanti a questo destino, deve retrocedere l'autenticità delle apparizioni, ma poiché aveva già espresso a favore un'opinione a favore, dice che vedeva il diavolo travestito da Madonna, che è una soluzione spettacolare. Ora, se la Chiesa ha questo potere di mettere un cappello narrativo, quello, sopra un fenomeno paranormale, come è l'apertura di uno squarcio tra l'aldilà e l'aldilà, attraverso cui una entità divina, aliena, si manifesta a noi, questo potere narrativo lo possiamo rivendicare. E nel mio caso cerco di rivendicarlo andando a cercare altre storie. E quella di Josephine mi sembrava una chiave per riraccontare la storia di Lourdes, scegliendo un'altra cornice a quello che succedeva, raccontando come sarebbe potuto andare e raccontando tutta una serie di eventi di resistenza intorno a quella vicenda che sono andati perduti, sono stati semplicemente dimenticati, e che basta rievocare per portare alla luce tutta una rete di relazioni, di avvenimenti, per risignificare delle cose, nel desiderio di risignificare ovviamente in primo luogo il mio nome, che è liberarmi un po' da quella pressione. Sì, devo dire che diciamo, tutta la questione dei territori, no? Del dentro, del fuori, dei confini che vengono superati, dei terreni comuni che vengono in un certo senso espropriati e che rimandano ad altre situazioni di oggi. E quella è una cosa molto interessante, perché in un certo senso le cose si ripetono, le dinamiche si ripetono e qualcuno non impara mai, no? Mentre altri imparano molto meglio, no? E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Però anche, diciamo, forse una cosa non abbiamo detto, che nelle storie di tutte queste veggenti vere o finte si ritrova puntualmente, e cioè l'opera di silenziamento, perché qui anche Bernadette non subisce come dire, un buon trattamento, nel senso che lei viene come dire, sostenuta come colei che dice la verità, come colei che ha le apparizioni, eccetera, eccetera, però le viene disinnescato qualsiasi potere lei possa avere per un momento nelle mani, viene rinchiusa in convento, le viene impedito di parlare, le viene impedito di scrivere, di avere una voce esterna, no? Per cui tutta la sua vita si risolverà in una estrema obbedienza ed estremo asservimento a quelli che sono a quelle che sono le decisioni, a quello che è il modo di procedere della gerarchia ecclesiastica. L'altra, che invece, come dire, reagisce, non è disponibile a questa cancellazione continua e progressiva di sé, viene emarginata, viene bollata ed estromessa dalla storia praticamente, no? È un'estromissione dalla storia che il genere femminile ha sperimentato più volte. La cosa straordinaria che tu metti a fuoco è che qualcuna riesce a riscattarsi, e comunque anche nelle storie in cui la protagonista, la personaggio, non riesce a riscattarsi, in un certo senso tu riscatti tutto l'affresco sociale che ne tiri fuori, perché noi attraverso quello che tu scrivi abbiamo una rappresentazione di queste piccole o grandi comunità che nascevano intorno a questi episodi, che davano sangue, no? A questi episodi, e che però al tempo stesso su queste persone, su queste donne, facevano pesare la superstizione, gli stereotipi, i vincoli economici, le questioni ereditarie. Quindi, diciamo, sono leggi stringenti da cui è molto difficile sfuggire. Qualcuna sfugge e qualcuna no, però tu dai ragione delle une come delle altre. Mi viene in mente l'immagine di Jurassic Park, in cui si recupera dall'ambra il DNA dei dinosauri per rimetterli in vita. Ora, qui si tratta appunto di recuperare il DNA di storie che non hanno esplicitato interamente la loro potenza, e che, rimettendole in circolo oggi, in Jurassic Park, farlo è terrificante, ha effetti mortali, per cui tutti film molto reazionari, perché vi dicono questa è una roba che non va fatta. Noi lo facciamo ovviamente con la speranza che rimettere in circolo storie rimosse possa, interagendo con la quotidianità e con l'oggi e la contemporaneità, nell'era di internet, nell'era dell'intelligenza artificiale, possano produrre significati diversi. E quindi in qualche modo anche delle sconfitte possono diventare altro nel momento in cui ci fanno raccontare altro. Io ho trovato questa fotografia della grotta con tutta una recensione davanti, e per me che arrivo dalla Valsusa, dove le recensioni davanti al cantiere, che vengono sfidate dalle fumne notave, che sono le donne contro la linea Torino-Lione, le due immagini sono la stessa immagine, cioè a Lourdes, come qui, il potere erige delle barriere per impedire l'accesso a terre comuni. Nel caso di Lourdes si era in un'estate particolarmente secca. La Madonna, o occhi per essa aveva fatto apparire dell'acqua, quindi aveva sgorgare una sorgente, che è quella la cui acqua potete ancora oggi comprare nelle famose bottigliette a forma di Madonna. E quindi recintare quella cosa voleva dire impedire l'accesso a una fonte di comune. A un bene comune. E quindi le battaglie per l'acqua lì venivano fatte tirando giù le barriere con delle organizzazioni paramilitari di queste donne, che una saliva in cima alla grotta per guardare che non arrivassero i gendarmi, le altre erano incaricate di buttarle giù. E ho recuperato alcune di queste cronache che sono veramente epiche, però sono battaglie che oggi non si raccontano più e che invece raccontano una Lourdes che c'è stata, non è nemmeno che potrebbe esserci. È però un'utopia l'idea che da quella roba lì avrebbe potuto venire fuori qualcosa di diverso di Lourdes, che invece oggi è la Pontida di Francia, cioè il luogo dove gli ultramonarchici si ritrovano sperando di riportare al governo una teocrazia illuminata. Sì, perché diciamo che è interessante l'utilizzo che tu fai di queste che possiamo considerare outsider, no? Tu dici, dalla sua posizione di outsider la veggente può vedere, dunque mostrarci, che la società si basa su una convenzione e l'orizzonte che ci viene propinato come unico e reale è una costruzione ideologica e con lui tutte le sue ipotesi, i suoi valori e le sue norme. Pur di non rientrare nell'ordine costituito, Josephine ha scelto di scomparire, ricordandoci che esiste una molteplicità di vie d'uscita e una favolosa schiera di soggettività oppresse con cui cospirare, anche e soprattutto nel senso originario del verbo, cambiare l'aria e tornare a respirare insieme. E qui direi che c'è l'utopia a comando. No, io ho trovato questo piccolo libro, grande, assolutamente adorabile, ricco di una documentazione ferrea, e poi appunto tu riporti alla luce non solo questa Josephine, la seconda leggente, ma anche queste azioni collettive delle donne che cercano di riappropriarsi dell'acqua, quindi in un certo senso è una sorta di configurazione storica di qualche cosa che raramente, però qualche volta vediamo anche adesso, per dire che bisogna sempre scavare nel passato, perché nel passato magari ci sono state cose che varrebbe la pena di conoscere e recuperare. Quindi è anche un modo di interpretare gli studi storici in maniera attivista, combattente? Sì, cito l'altra parte, quella maschile, che attaccava era un'epoca in cui stavano espropriando le terre comuni, recintandole per fare costruire cave, eccetera. E c'erano bande di uomini che si vestivano da donna, con dei vestiti bianchi sgargianti, quindi erano chiamati le fatine, e quindi apparizioni nei boschi di fatine, che però menavano e che menavano gli sbirri, erano cronaca, e quella storia, cioè di questa guerra delle demoiselles, che sono in realtà appunto nervoluti abitanti che di notte andavano a malmenare i poliziotti, sono storie che ci raccontano antenati che non immaginavamo di avere, e che sapere che c'erano, magari erano pure nel mio ramo, insomma, fa piacere, perché ti dà energia, perché di solito invece è una cosa che non si fa. Scegliere quali storie raccontare è un atto politico gigantesco, per cui il fatto di selezionare alcune storie o non altre apre o chiude cose. Io ho cercato di aprire una dimensione di Lourdes che tendenzialmente resta chiusa, perché uno ci possa andare alla ricerca di quello che c'è appunto quando si copre l'eccesso di luce che abbaglia e che potrebbe nascondere le cose invece più interessanti. Non è intervenuto, non hai avuto articoli contro, recensioni contro, perché per quest'opera di dissacrazione che tu fai? Sto pensando a quando Paolo Poli, a Paolo Poli interruppero la messa in scena di cos'è, uno spettacolo su Santa Teresa. No, a te non è mai capitato, però l'attacco che tu porti alla capacità di mettere in piedi una narrazione in grado di travolgere una piccola comunità, un territorio, e creare una mitologia che dura da due secoli ormai, Insomma, questo direi che graffia abbastanza. Credo che davanti al nome di Josephine Albario, che c'è anche in copertina, abbiano detto: ma questa chi è? Ma dove l'ha presa? La ma la, e non la trovano, non la trovano perché se, cioè, l'ho trovata in un mini piccolo trafiletto di questi 6 volumi di Laurent Tan che nessuno ha perché solo io li leggo, perché alla ricerca di quella roba, ma è così piccola, è così nascosta, che è nascosta pure a loro, e quindi è anche difficile controbattere senza arrivare a trovare questa fonte che è assolutamente inaccessibile, per cui il fatto di cercare storie poco note ti protegge anche un po', perché devi veramente volerlo attaccare, e non vedo l'ora che qualcuno di loro abbia invece un'espressione di rabbia e fastidio. Quindi non l'hai mandato... Adesso non so chi è il cardinale che regge la diocesi di Torino, ma io gliela avrei spedito. Da... Ci sono domande? Avete bisogno di un incoraggiamento? Allora, mentre voi ci pensate... Io volevo chiedere a Mariano, ci hai parlato del podcast che state tirando fuori da Incantagioni, quando sarà possibile ascoltarlo? Noi speriamo entro maggio, mm-hmm. Ci stanno lavorando questa coppia di podcaster bravissime che sono Ludovica Perina e Luca Piccolboni, mm-hmm. Che hanno già un bellissimo podcast sulla salute mentale e la politica, su Nero e sul blog di Nero, che si intitola Cassandra con la K. Sì. Sono giovanissime, hanno 20 anni meno di me, per cui hanno comunque un occhio su queste vicende e di un'altra generazione, vedono cose che io non vedo, mm-hmm. Interagiscono con i loro studi, perché lei è antropologa, lui invece studia psichiatria, e quindi la storia di Ersi li ha particolarmente colpite. Mm-hmm. E ho ascoltato la prima puntata, mi è molto piaciuta, insomma, mi sembra che sia promettente. Saranno 6 puntate come le protagoniste del libro, ma le storie che racconteranno non si sovrappongono perché non è un audiolibro. Mm-hmm. E sono molto molto curioso di vedere il risultato finale, perché promette bene, sì. Un'estensione del libro. Anch'io. E invece tu a che cosa stai lavorando adesso? Vi faccio vedere un glimpse dal futuro, se vi va, visto che sei appassionato di fantascienza. Vi faccio già vedere un libro che deve uscire, che uscirà o per il Salone del Libro, forse in autunno, che però ho già fisicamente, perché io quando ho un'idea e la racconto, l'idea non attecchisce mai, quando poi la vedono fatta, sì, la voglio, e quindi io ho un po' questa roba. Io questo libro l'ho dovuto scrivere, impaginare, stampare, illustrare, stampare, una volta con la copia in mano l'ha visto l'editore Thlon e ha detto: ti prego, ferma, non lo distribuire, lo facciamo noi. E quindi il libro sarà questo, cioè il mio libro di magia, è un manuale di giochi di magia, proprio come se fosse il manuale di Silvan, con dei giochi in cui insegno giochi di prestigio. Sono 10 lezioni che chiamo magia antifa, qui in basso, e vi leggo il retro. Secondo Jerry Seinfeld, tutta la magia si può riassumere in: ecco una moneta, ora è sparita, sei uno sfigato, ecco la riapparsa, sei un idiota, lo show è finito. Fiducioso nella possibilità di redimere l'arte magica, Mariano Tomatis sfida l'illusionismo macista con un manuale pratico ispirato a una magia gentile, conviviale e antifascista. Quindi questo è un libro di illusionismo, in cui però, nello spiegare i giochi di prestigio, cerco anche di decostruire la figura classica dell'illusionista. E quindi questo sarà poi in libreria quando esce anche per Thlon. Questa copia è per te e l'ho dedicato dicendoti che è un libro che arriva dal futuro. Ma grazie, bellissimo un libro dal futuro. Io devo dire che ho provato a rifare uno dei tuoi giochi di carte, quello in cui praticamente si dispongono le carte e si dice all'interlocutore o all'interlocutrice di sceglierne una, poi si taglia il mazzo, si distribuisce in una certa maniera a partire da un numero, si ridistribuisce per 4 volte, e dopodiché magicamente dovrebbe comparire la carta che esce. Io ci ho provato, ma non... No? Cioè, no, come dire... Perché so era 3 volte. Non era 4, era 3 volte. Ho girato troppo. Dunque, un'altra cosa che ti volevo chiedere come conclusione. Io sono stata incuriosita dal fatto che tu hai alcuni testi pubblicati con case editrici piccole, medio piccole o invece medio grandi, e poi una serie di libri che invece sono pubblicati da una tua casa editrice, è vero? Sì, come questo, dovevo avere quel destino e poi invece è stato acquistato. Acquistato da Flode, gliel'hai venduto così, gliel'hai venduto a caro prezzo. Di solito devo prima farli io e poi quando li hai in mano l'editore dice sì sì, questa cosa sì, adesso ho capito, però lo devono vedere fatto. Io da un anno mi sto occupando di Roma perché sto seguendo il percorso di Emile Zola che è partito da Lourdes, poi è passato a Parigi e alla fine è arrivato a Roma, ha scritto un trittico di romanzi. Io ho pubblicato su Lourdes, su Parigi, una guida alla Parigi magnetica e meravigliosa, e sono finito a Roma. È un anno che mi occupo di Roma, pensavo di farne un libretto, in realtà ogni capitolo sta diventando un libro a sé, per cui ne vedete tre in fondo, il primo è Il segno del comando, il secondo è invece gira intorno al Teatro Valle dove c'erano spettacoli di lettura del pensiero che all'epoca veniva chiamata stenologia, quindi un manuale di stenologia intorno al teatro del Teatro Valle, e il terzo volume invece sul museo dell'Oltretomba, il museo che c'è nel quartiere di Prati dove ci sono le impronte delle anime del purgatorio a fuoco su messali, vestiti eccetera. Ciascuno di questi libretti è il capitolo di un libro che poi si intitolerà Incantamente Romana. Ho due capitoli già scritti a parte, che però non sono ancora diventati un libretto. In questo sesto capitolo a cui sto lavorando è dedicato alla moglie del mago, per eccellenza, che è Lorenza Feliciani, la moglie di Cagliostro, che è romana, che ha vissuto tutta la vita facendo la cortigiana, quindi è un libro in cui il sex work entrerà in maniera pesantissima e scriverlo è molto complicato, per cui ci sto lavorando da un sacco di tempo ed è forse il capitolo che mi richiederà più tempo. Per cui il grosso progetto a cui sto lavorando è Incantamente Romana. Poiché nessuno li compra così, io li pubblico. Comunque, ne vedete tre copie in fondo lì sul tavolino, questi tre capitoli, ma succederà che una volta che poi sono 7-8 e li metto in un libro unico, un editore mi dirà lo voglio. Per cui è un po' la vita che qui mi sono... Cioè, è una sorta di gioco di sì, è da fare così. Che tu attrezzi per le case editrici, sì. Praticamente. Va bene, se non ci sono domande io chiuderei qui. Mariano, io ti ringrazio enormemente, ti ringrazio soprattutto per quello che scrivi, perché lo trovo straordinario. Scusate se sono...